giorni di tenui paesaggi dell'anima, densi di fiati e di poesie scritte per intimi tuoi. Giorni di inutili sogni dell'anima, strade, paesaggi più limpidi dispersi negli occhi tuoi. Vividi arcobaleni cantati già, verdi distese profondità, tutte dipinte da te. Complici viottoli e alberi di città, amici giardini pubblici, pregni di musiche, questo feeling è per te, ornamento di pensieri. Giorni di attimi vuoti di volontà, caduchi e semplici angeli, cieli più ampi su noi. Epoche d'artisti teneri e fragili, risponderate a me. Sconosciute epoche di laghi e vaghi profili, lucide immagini e intensità indelebili, magiche fuggide sere d'estate, canzoni e luci di favole, anime alate, feeling nuovi, libertà, su una tela senza età. Innamorerai questo film.